Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. In primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa internazionale. Questa settimana vorrei iniziare dalla copertina dell'Economist, come peraltro ho fatto anche settimana scorsa, perché a parte la mia passione personale per questo settimanale britannico, perché tra tutti i settimanali, mensili, quotidiani che mi è capitato di sfogliare, è quello che cerca di riflettere di più sulle cose e di dare degli spunti, non di suggerire delle opinioni, e quando dà delle opinioni le separa il più nettamente possibile dai fatti. Ed è sempre, cerca sempre l'Economist di essere un po' avanti rispetto alla cronaca, o se vogliamo indietro, però non è sicuramente il settimanale dove trovate i reportage di quello che è successo due giorni prima. Questa settimana la copertina non è più dedicata strettamente al Covid, del resto un po' su tutti i giornali le notizie legate alla pandemia vengono un po' diluite, cominciano a essere diluite in mezzo a tutte le altre notizie di tutte le cose che hanno continuato a succedere anche durante la pandemia. La copertina di questa settimana è tutta in bianco e nero, la parola scritta a caratteri cubitali è race, razza, e il titolo è The New Ideology of Race, la nuova ideologia della razza, and what's wrong with it, e che cosa c'è di sbagliato. Il tema naturalmente è quello delle disuguaglianze che chiamiamo razziali per intenderci, lo fa anche l'Economist, ma sappiamo che in realtà la razza umana è una sola, però in questo caso naturalmente ci si riferisce al movimento Black Lives Matter, BLM ormai anche come è conosciuto, cioè le vite dei neri sono importanti, che è diventato noto in tutto il mondo, ma è un movimento che esiste negli Stati Uniti già da qualche tempo ed è diventato noto dopo l'uccisione da parte della polizia dell'afroamericano George Floyd. Questo si è portato poi dietro le proteste, lo sappiamo, molte delle quali comunque pacifiche, anche se ci sono state anche quelle non pacifiche negli Stati Uniti, ma non solo, l'Economist lo ricorda, e adesso siamo già alla fase successiva, quella in cui si rimette in discussione tutto quello che riguarda la riflessione sul periodo dello schiavismo, che naturalmente è continuato negli Stati Uniti fino al 1865, quando è stata con un emendamento alla Costituzione, dopo la guerra civile, la schiavitù è finita, e però in realtà bisogna arrivare al 1954 perché i neri abbiano veramente costituzionalmente gli stessi diritti. Il tema del abbattere le statue, reintrodurre le quote per gli afroamericani nelle scuole, nelle università è molto controverso, e quindi l'Economist dice: se tutto questo diventa un'ideologia, si rischia di non risolvere veramente, di non iniziare nemmeno a risolvere il problema che esiste delle disuguaglianze negli Stati Uniti e non solo, tra le condizioni di vita e di lavoro dei bianchi in generale e delle minoranze, gli afroamericani, ma anche gli asiatici, i latinos. A proposito invece protezione in generale di tutte le persone che sono vittime di guerre, di violenze, quindi qualcosa di più grave delle disuguaglianze, ricordiamoci sempre che l'11 luglio del 1995, cioè esattamente 25 anni fa, su ordine di Radovan Karadzic, almeno 8.372 uomini e ragazzi musulmani bosniaci furono uccisi dall'esercito serbo bosniaco guidato da Ratko Mladic in ciò che era un'area protetta dall'ONU, cioè Srebrenica. Di questo parla Vox Europe con un bell'articolo firmato da Roger Casale. Srebrenica è un piccolo paese, appunto c'erano 10.000 abitanti circa, nella parte più orientale della Bosnia-Erzegovina, vicino al confine con la Serbia. In quel periodo, questo possiamo definirlo un genocidio, nel senso che appunto venne praticamente azzerata la popolazione maschile di quella città, e naturalmente questo si inseriva nella guerra dei Balcani, che poi, alla quale poi la NATO sostanzialmente pose fine. Però quell'odio che portò a quel massacro e anche tutta quella situazione ancora oggi così complicata geopolitica non va dimenticato, perché, come ripeto, 25 anni fa successe questo sotto gli occhi tra l'altro dell'ONU, perché Srebrenica era in una zona che appunto avrebbe dovuto essere sulla carta protetta dalle Nazioni Unite. Non che questo sia necessariamente una garanzia di sicurezza, sappiamo quello che è successo in Ruanda, dove c'è stato un genocidio da 600.000 morti in poco meno di 20 giorni, e anche in quel caso i caschi blu erano presenti. Però appunto sono anniversari, dovremmo ricordare ogni giorno questi crimini, o almeno ogni 11 luglio di ogni anno, però visto che 25 è un numero tondo, invita appunto Vox Europa a fare questa riflessione. Per tornare un po' invece sulla stretta attualità del coronavirus, che tra l'altro sappiamo qui in Italia e in generale in molti paesi europei la curva si è finalmente abbassata, sappiamo che non è così negli Stati Uniti, dove questa settimana che sta per finire, un giorno dopo l'altro, si sono stabiliti dei record per numero di contagiati nuovi ogni giorno. E allora il New Scientist, che è questo settimanale britannico di divulgazione scientifica ma molto molto alta, lo può tranquillamente leggere uno scienziato, ma anche, perché è fatto bene, una persona che scienziato non è ma è incuriosito dalla scienza. La copertina questa settimana è dedicata al tema dell'immunità. Sappiamo che tutti i test che vengono fatti per rilevare gli anticorpi, il che vorrebbe dire che in qualche modo il virus ci aveva già contagiato, o siamo stati asintomatici ma abbiamo sviluppato gli anticorpi, o magari abbiamo proprio sviluppato la malattia, abbiamo ancora gli anticorpi, ma è molto ancora misterioso questo coronavirus. I virologi più onesti lo ammettono, è ancora un mistero. Come esattamente funzioni l'immunità e quali garanzie dia il fatto appunto di avere gli anticorpi. Dal New Scientist però, come sempre ricchissimo di articoli di ogni genere, ce n'è anche uno molto curioso sul fatto che i cani da slitta, che oggi come oggi vengono ancora usati in alcune popolazioni, tipo il popolo degli Inuit, ma anche in altri luoghi, in Siberia, e si pensava che fosse una pratica abbastanza recente, e invece, spiega il New Scientist, sono stati trovati in Siberia resti di cani da slitta, quindi antenati, diciamo, dei cani da slitta come li conosciamo oggi noi, di 9.500 anni fa. Quindi vuol dire, insomma, che questo ennesimo caso dell'uomo, insomma, che si fa aiutare, diciamo così, da un animale, in questo caso dal cane, è molto antico. E passiamo a un altro argomento, perché abbiamo parlato naturalmente tanto di Covid, di seconde ondate, di questo hanno parlato tanti giornali, si ipotizza una seconda ondata per l'autunno in Francia, ma anche in Spagna, dove ci sono parecchi focolai. Però intanto in Francia, come avrete sicuramente sentito, c'è stato quello che noi qui in Italia chiamiamo rimpasto di governo, e Le Figaro ha subito commissionato un sondaggio per tastare un po', per capire per esempio come hanno reagito i francesi, soprattutto alla nomina del nuovo primo ministro, perché nel sistema democratico francese, una repubblica democratica, c'è il presidente che è Macron, ma poi c'è un governo e quindi un primo ministro, e sulla nomina di Jean Castex a nuovo primo ministro il 47% dei francesi dice giustamente di non avere ancora un'opinione, insomma è stato nominato da pochi giorni, il 29% ritiene che sia la sua nomina sia una cosa buona per il paese, il 24% invece non lo apprezza. Poi invece Le Monde ha fatto un'intervista a Anne Hidalgo, fresca di rielezione come sindaco della capitale francese, e tra le molte cose che ha detto ha rilanciato l'ipotesi di fare un referendum in autunno sulla opportunità di vietare che Airbnb operi in Francia, in particolare a Parigi. Airbnb, naturalmente il colosso degli affitti brevi, già in crisi come tutto il settore dell'ospitalità dell'ospitalità e della ristorazione per il Covid ha sempre detto di non capire questa ostilità. In realtà sono moltissimi i sindaci di grandi città anche in Italia a contestare il modello Airbnb, ma vedremo, perché naturalmente sarebbe un ulteriore colpo a un'azienda che, come dicevamo, come tantissime altre, è in crisi per via del Covid. Un'ultima segnalazione, perché insomma non si muore solo di Covid naturalmente, e tutti i quotidiani australiani hanno dato molto spazio alla scomparsa di Alex Pullin, che aveva solo 32 anni, era stato due volte campione del mondo di snowboard ed è morto nel suo paese mentre stava facendo pesca subacquea in apnea, probabilmente per un'imprudenza, perché al mare come in montagna, anche se si è sportivi, anche se si ha un super fisico, bisogna stare sempre molto attenti. Era un ragazzo giovane e avrebbe sicuramente partecipato ad altre Olimpiadi, ma la sua vita appunto è finita nelle acque dell'Australia. Era l'ultima segnalazione per oggi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.